America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are here today to announce the results of Operation Broken Trust. È stato il più grande scandalo di truffa organizzata mai registrato negli Stati Uniti e ne ha dato notizia ieri pomeriggio l'FBI. Stiamo parlando di 500 persone che sono state incriminate contemporaneamente. Queste 500 persone sono un po' sparse su tutto il territorio nazionale, hanno organizzato delle truffe ai danni di persone deboli, di persone anziane, di persone ignoranti, di persone che si fidavano. Ci sono, sembra, decine, centinaia di esempi diversi di operazioni finanziarie truffa organizzate da questi pescecani, da piccolo cabotaggio. Sembra che il totale delle persone coinvolte in queste truffe superi il numero di 100.000 persone, quindi stiamo parlando veramente, cari ascoltatori, di un'operazione davvero colossale, ma di piccolo cabotaggio, torno a dire, cioè non ci sono i miliardi di dollari messi in gioco da Bernie Madoff, che fece un buco da 50 miliardi di dollari truffando in quel caso poi tra l'altro ricchi americani e stranieri. Non ci sono quelle operazioni ai margini della legalità, ai confini della legalità organizzate dalle grandi banche d'affari. No, ci sono delle vere e proprie truffe. Beh, posso raccontarvene una, per esempio, di un predicatore evangelico che in un paesino del Texas a un certo punto parla con la sua congregazione e rivela di aver trovato un modo per poter arricchire se stesso e gli altri, e quindi decide di condividere questo suo sapere ammagliando il suo gregge. In che cosa? In operazioni di cambio fasulle, dollaro, euro, yuan cinese e così via, così via. Risultato: truffa per 16 milioni di dollari. Il predicatore, e vorrei ricordarvi che spesso in America questi predicatori evangelici si improvvisano predicatori perché non hanno una preparazione formale, non vengono da seminari in cui hanno studiato teologia, soprattutto non fanno parte di un ordine precostituito, di un ordine ecclesiastico precostituito. Dunque spesso sono davvero dei potenziali criminali allo sbaraglio. In questo caso le autorità federali americane hanno deciso di inviare un messaggio molto serio: non sarà tollerato l'utilizzo di operazioni fasulle o comunque di operazioni truffa ai danni di gente povera, di gente di reddito medio. È un messaggio molto importante questo, perché dopo gli scandali finanziari molti criminali, alcuni che magari erano ai margini delle attività mafiose, hanno cominciato a ideare degli schemi, dei Ponzi schemes, come fu per esempio quello di Bernie Madoff, molto più in grande scala, per così, per riuscire a racimolare 100, 200, 300 mila dollari, un milione di dollari, 500 mila dollari, e quindi erano veramente dei furti non legalizzati, ma dei furti che loro pensavano sarebbero comunque passati inosservati. Non lo sono passati però agli occhi della giustizia americana, che ha voluto, e devo dire onore al merito, lasciare un segno ben preciso. Vi darò nei prossimi giorni maggiori dettagli, perché sembra che gli aspetti più interessanti di questa vicenda siano poi le storie individuali. That Continental Airlines was criminally responsible for that crash which killed 113 people back in 2000. Restiamo nel contesto giuridico. Abbiamo avuto due notizie ieri interessanti, sempre dal punto di vista di giudizio espresso in corte. Il primo riguarda un giudizio di una corte francese. Direte: ma come mai parliamo di una corte francese? Beh, perché ha incriminato la Continental, che è una linea aerea americana, giudicandola colpevole e responsabile per il celebre incidente del 25 luglio del 2000, molti di voi lo ricorderanno, nella pista di decollo dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, quando questo meraviglioso Concorde stava per decollare. A un certo punto ci fu un incidente al decollo e l'aereo si disintegrò. E con questo disintegrarsi di questa straordinaria macchina volante, perché si volava attraverso l'Atlantico in tre ore e mezzo, si chiuse l'epoca del sogno supersonico, quella cioè che con il Concorde, questo meraviglioso progetto ingegneristico messo a punto da ingegneri inglesi e francesi, avrebbe dovuto aprire la strada per portare poi anche alle masse il trasporto supersonico e ovviamente super veloce. Poi non successe, questo aereo restò una specie di Rolls Royce dei cieli e quell'incidente naturalmente colpì, perché i personaggi a bordo erano tutti personaggi di una certa importanza, di una certa rilevanza. Che cosa è successo? È successo che la ricostruzione ha confermato che un meccanico della Continental non aveva riparato nel modo giusto una piccola lamina di metallo che doveva essere di alluminio e che invece fu di zinco. Questa piccola lamina cadde dal volo Continental che stava decollando per New York nel momento del decollo e questo pezzetto di metallo restò sulla pista di decollo. Nessuno ovviamente si preoccupò di pulirlo, poi gli aerei partivano dietro l'altro. Il volo successivo era quello del Concorde e quello che sembrava in un primo momento un incidente assolutamente meccanico, un guasto di questo aereo ormai un po' vecchio, è invece stato confermato che è dovuto al fatto che le ruote dell'aereo hanno impattato questo pezzetto di metallo, sono esplose e con questa esplosione è esploso l'intero aereo con la morte di ben 112 persone, 109 passeggeri e 4 persone a terra. Ecco, questa storia si chiude con una condanna non straordinaria dal punto di vista pecuniario, perché stiamo parlando di qualche milione di dollari, però la Continental ha annunciato che farà ricorso. Sempre sul piano legale, sul piano giuridico, volevo raccontarvi la storia di Walmart, la più grande catena di vendita di magazzini in America, è riuscita a convincere la Corte Suprema americana a giudicare un suo ricorso secondo cui avrebbe discriminato nei confronti dei dipendenti femminili. Walmart ha sempre negato, ha sempre perso. A questo punto toccherà alla Corte Suprema decidere. Ha annunciato ieri che avrebbe accolto questo caso. We have arrived at a framework for a bipartisan agreement. For the next two years, every American family will keep their tax cuts. Infine, addirittura vi confermo che il presidente Barack Obama e i repubblicani sono ormai vicini, anzi hanno quasi raggiunto un compromesso sul fronte fiscale. Si sono incontrati ieri pomeriggio alla Casa Bianca, un incontro molto produttivo. Si tratta a questo punto di risolvere, di sistemare alcuni dettagli, ma fondamentalmente Barack Obama ha fatto marcia indietro sulla sua prerogativa irrinunciabile, e cioè quella di aumentare le tasse per i più ricchi. E quindi non succederà, ma ha ottenuto in cambio dai repubblicani la possibilità invece di poter estendere i sussidi per la disoccupazione che sono già scaduti il mese scorso e che avrebbero messo un paio di milioni di persone sul lastrico, perché non avrebbero più ricevuto a dicembre, dunque alla vigilia di Natale, il loro assegno mensile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Esce oggi Look at What the Light Did Now, che è un documentario che racconta come è stato realizzato l'album di Feist intitolato The Reminder. Ed ecco a voi la canzone Look at What the Light Did Now. Guardate cosa ha combinato la luce. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!